La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta, benvenuti alla versione di Oscar di oggi, 16:35 18 secondi, e grazie a quelli che continuano a scaricarci in podcast, che ci mandano i messaggi, sapete il numero 349-238-6666, per chiamare 800-24-0024. Vi dico subito, oggi 25 di ottobre, giovedì, oggi pensate è l'anniversario dell'inizio della rivoluzione d'ottobre, se dovessimo vedere un giorno carico di storia. Però qual è il tema che tocchiamo? Oggi parliamo di banche, tenteremo di non farlo in maniera troppo tecnica, anche se in realtà l'Europa è in corso, un consiglio europeo proprio oggi ne parla in maniera tecnica, però io vi chiedo di fare qualche telefonata, se ve la sentite, per dirvi che cosa chiedereste voi, cosa vi aspettate voi dalle banche di cui avete visto la restrizione di credito in questi anni, sia che voi siete un cliente individuale, se siete un piccolo imprenditore. Chiamate all'800240024. Perché questo ve lo dico? Perché nella legge di stabilità per le banche ci sono molte cose, magari ci fossero cose di impatto analogo per i lavoratori a bassi redditi, per gli incapienti, per le piccole imprese. Nella legge di stabilità si dà una mano alle banche per l'altissima quantità di crediti incastrati e dubbi che hanno, perché gli si fa ammortizzare non in 18 anni, che era molto penalizzante, ma in 5 anni. Dal punto di vista fiscale, i crediti, i dubbi che hanno. Non ci si dà un'altra mano perché le si rafforza nel patrimonio con una manovra che a me sembra totalmente inventata. È un artificio contabile quello di rivalutare le quote della Banca d'Italia, che molte banche private e quotate hanno. Ci sarà un meccanismo di rivalutazione per il quale lo Stato si prende dalla plusvalenza al fisco, quindi lo Stato ci guadagna, ma loro rafforzano il capitale, cosa che dovrebbe essere vietata, perché quelle quote di capitale loro non potranno venderle, quindi rafforzamento di un patrimonio di vigilanza farlocco. Eppure la finanziaria, la legge di stabilità stabilisce anche questo. Ieri abbiamo appreso anche, l'altro ieri, che lo Stato italiano, sempre affamato di poter piazzare bene i suoi titoli pubblici quando ce ne sono già più di 400 miliardi in pancia alle banche italiane, la famosa domanda che cosa se ne sono fatti dei 250 miliardi della BCE, hanno soprattutto comprato titoli pubblici dello Stato, e lo Stato a questo punto dà un'ulteriore garanzia alle banche per incoraggiarle a comprare titoli di Stato che sono già molto avvantaggiati, come sapete, dal punto di vista fiscale. Coprirà le banche che continuano a comprare i titoli di Stato la controgaranzia in derivati, e lo Stato si prenderà sulle proprie spalle il tesoro, la copertura alle banche di questa garanzia, pur di piazzare i propri titoli. Allora, tutto questo è diventato un grande tema perché il Consiglio europeo di oggi e nel dibattito degli ultimi giorni avete visto che l'Unione bancaria europea, deliberata mesi fa, entra tra pochi mesi all'inizio dell'anno nel pieno di un suo primo esercizio di potere e farà, su più di 100 banche europee, inizierà a vedere in pancia ciascuna di loro l'esposizione per il rischio, quanto è solido il capitale più liquido, quello che serve appunto a poter fronteggiare i rischi. E di fronte a tutto questo i tedeschi hanno per l'ennesima volta puntato i piedi dicendo: ma attenzione, bisogna vedere innanzitutto i fondi che dovessero intervenire, chi li finanzia, perché. Hanno chiesto che voti un Parlamento nazionale, Parlamento di ogni paese e soprattutto quello tedesco, prima di ogni eventuale intervento su banche che si dovessero trovare in difficoltà e dovessero essere salvate. E insomma si è aperto un grande tema, perché le banche italiane hanno molti titoli pubblici, hanno un enorme carico di crediti incagliati, 140 miliardi di euro di non performing loss, cioè quindi di crediti in sofferenza, e sono corte di capitale. Molte di loro sono sul limite della soglia minima di patrimonio che la BCE ha fissato in una certa percentuale, di un certo criterio, che è inutile che vi stia a dire, tecnicamente è un po' complicato spiegarlo, diciamo ci sarà una valutazione di un 8% del capitale più facile da dismettere in caso di rischio, quindi stiamo parlando di azioni e stiamo parlando di dividendi non distribuiti. Eppure parecchie banche sono sul limite di questa nuova soglia, lo è Carige, lo è Veneto Banca, la Banca Popolare di Sondrio, la Banca Popolare di Vicenza è poco sopra, la Banca Popolare di Milano, e quindi si è diffusa un po' di paura su che cosa aspetti le banche italiane. Anzi, ieri quando è crollata la borsa, è crollata perché Mario Draghi a un certo punto ha detto: noi questi stress test che faremo come autorità di vigilanza europea li faremo seriamente, e se dovrà capitare che qualche banca non li supera, non li supererà. E immediatamente le banche italiane sono andate sotto, con MPS che è andata sottissimo, per così dire, perché MPS è tra tutte le banche quella che ha la più alta percentuale di crediti dubbi, oltre il 19% dei crediti. Il mercato punta quasi alla sua nazionalizzazione, pensa che probabilmente non ce la farà a fare l'aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo che è partito. Ecco, di tutto questo, e chiedendovi che cosa vi aspettate da, non solo da questo regime europeo, ma dalle banche italiane oggi, che cosa vi aspettate voi, abbiamo deciso di parlarne con un giornalista, un collega che io ammiro molto, seguo questi ultimi anni con crescente attenzione, e che è proprio dove si tiene il Consiglio europeo a Bruxelles. Scrive per l'Inchiesta, si chiama Fabrizio Garia, e io lo ringrazio di essere con noi. Fabrizio? Grazie Oscar e grazie a tutti i radioascoltatori. Allora, innanzitutto, quali sono le ultime novità su questo tema delicato? Ci sono novità oppure andrà tutto liscio e già tutto deciso su questo inoltrarsi dei primi poteri della BCE come autorità di vigilanza? Ma allora, la roadmap è completamente decisa, però c'è da dire che la mattina di questo Consiglio europeo è stata caratterizzata non tanto dai temi assolutamente economici, prettamente economici, ma quanto dall'NSA Gate. Cioè, sì, perché c'è la grande reazione europea perché gli americani spiano. Ecco. Assolutamente, sembra che si sia accorti solo adesso che esiste, sì, la diplomazia e avviene attraverso anche i telefoni. Comunque, la roadmap è ben decisa. Draghi ieri è stato molto molto chiaro e i leader europei hanno compreso le parole di Draghi. Serve una mossa di fiducia, e la fiducia verso gli investitori, soprattutto quelli internazionali, quelli statunitensi, che sono ancora molto resti a investire nell'Eurozona, passa assolutamente dalla completa trasparenza sui bilanci delle banche. Insomma, questi stress test che dureranno, allora c'è da fare un distinguo: l'asset quality review, ovvero il controllo, la verifica degli asset patrimoniali delle banche, durerà un anno, partirà in questo novembre e finirà nel novembre 2014. Gli stress test avranno un periodo che durerà leggermente di più e copriranno un orizzonte temporale di 3 anni, quindi dal 2013 fino al 2016, e affronteranno tutta una serie di tematiche ed eventuali shock che potranno esserci nelle banche. È chiaro che Draghi vuole, perché sa che questo è il primo dei pilastri della nuova Eurozona, dell'Eurozona che sarà, e quindi gli investitori devono essere fiduciosi ad investire appunto. Senti, però Saccomanni ieri è intervenuto con una tale ansia di fronte al mercato, sì, che andava giù, nel dire ma non c'è nessun pericolo per le banche italiane, che secondo me ha ottenuto un effetto peggiore, perché poi la caduta si è amplificata di fronte all'ansia del ministro dell'economia, ex Banca Italia, nel rassicurare. E io devo dire la verità, ti ho anche chiamato perché la penso come te, un po' criticamente su tutto questo che il tesoro sta mettendo in campo. Ma perché il tesoro deve prendersi anche i rischi di copertura dei derivati delle banche per continuare a fargli prendere più titoli pubblici quando ne hanno già così tanti in pancia? Questa è la domanda che ti faccio. Intanto sentiamo anche la domanda che aggiunge un nostro primo ascoltatore, Nino, che chiama da Catania. Prego Nino. Oscar, buonasera. Buonasera. Scusi, come dire, l'emozione. Ma che? L'ascolto sempre con... Andiamo al punto. La domanda è questa, non so se sia proprio di pertinenza, ma ascolti, laddove ci sia un intervento a favore delle piccole e medie imprese da parte delle banche, anche a sostegni da parte dello Stato, e io mettiamo un'azienda con 30-40 operai, dove questa azienda purtroppo fisiologicamente si trova in sofferenza bancaria, sì, ma come la mettiamo? Vado in banca, chiedo un mutuo e me lo deliberano? Scusi Nino, le faccio una domanda, ma lei è in sofferenza o è già entrato in centrale rischi, per capirci? Ma molte aziende, molte lo so, oggi già stanno in centrale rischi in maniera pessima, perciò laddove ci sia anche un intervento per le aziende in essere e le aziende di nuova costituzione, e io mi trovo ad avere un'azienda con 30-40 operai e fatturo 2-3 milioni di euro, la mia pratica va al corporate, ma il corporate sta pratica, anche se ci sono fondi garantiti dallo Stato, me la delibera oppure no? Finirà che sarà il cane che si morde la coda. Chiarissima la domanda di Nino, che dice qui per il momento non si vedono cambiamenti a favore della piccola impresa, c'è il problema dei rating, delle esposizioni, delle sofferenze e della centrale rischi. Chi va in centrale rischi rischia in Italia di non poter fare più niente. Roberto da Grosseto, prego Roberto. Sì, buongiorno dottor Giannino. No, Giannino e basta, abbia pazienza. Giannino, sì, prego. Scusi. Non volevo. Sì, io non vorrei, come dire, levare forza ai discorsi molto puntuali e come dire, attuali che state facendo. Sì. Mi permetto di fare una, cioè di portare attenzione su un punto di generale valore, penso. Occorrerebbe tornare, mi confermi lei e il suo ospite, alla famosa divisione tra banche di investimento e banche commerciali, cioè, o, insomma, quelle, cioè, che finanziano, cioè, quelle che c'erano nate con le grandi leggi bancarie del post 29 in Italia, con la legge bancaria del 36 che distingueva le banche che facevano raccolta e impieghi a breve da quelle invece che fanno un altro mestiere, perché devono fare raccolta e impieghi a lunga, quindi badare più agli investimenti di medio lungo periodo e quindi a investimenti anche nelle imprese di lungo periodo. Allora, abbiamo due temi, ripartiamo da tutto questo con la domanda aggiuntiva che ho fatto a Fabrizio Goria, con Fabrizio subito dopo il minuto di informazione sulla circolazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta a 16:46 30 secondi con Fabrizio Goria, collega dell'inchiesta, e al Consiglio Europeo, dove il tema dell'avvio della vigilanza bancaria, l'avete sentito, la roadmap è una roadmap che comincia scandita nel tempo dall'inizio del 2014, dura 2 anni, e iniziamo a rispondere a delle domande. Secondo te, Fabrizio Goria, il governo fa bene a prendersi questi rischi per incoraggiare le banche a comprare altri titoli pubblici? Secondo me no, perché sta spargendo troppo ottimismo, e questo è uno dei moniti che ha dato Olli Rehn durante l'ultima visita. Olli Rehn è il commissario europeo agli affari economici e monetari, e ha detto esplicitamente a Saccomanni un paio di settimane fa, quando venne in Italia, di smetterla con l'ottimismo. L'ha detto in un modo abbastanza deciso, più che altro perché la situazione non è finita. Se potrà anche essere finita la recessione, la fase più dura, ma l'Italia sta entrando in una stagnazione che probabilmente sarà più lunga e pericolosa della recessione. Tuttavia, per quanto riguarda i titoli pubblici, è chiaro che l'Italia ha bisogno di rifinanziarsi sui mercati. Se non sbaglio, il prossimo anno avrà bisogno di rifinanziarsi per 350 miliardi. Più o meno, sì. Attualmente i tassi di interesse su tutte le maturity, su tutte le scadenze della curva dei titoli di Stato italiani sono notevolmente bassi. Questo perché c'è il muro di protezione della Banca Centrale Europea. Si è visto che questo muro di protezione è molto solido, gli investitori ci vogliono credere. Tuttavia, l'Italia non può continuare con questa autarchia sui mercati. Bravo. Deve cercare di sloggarsi da questo circolo vizioso che è quello che diceva anche il capo della Bundesbank, Jens Weidmann, che sarà odiato in Italia, ma ogni tanto qualche cosa di giusto lo dice. Anche perché senza... Noi non stiamo separando le banche dal rischio paese, stiamo facendo l'esatto opposto in Italia. Pensate che Intesa, che è, diciamo, la più grande banca per il mercato domestico, il 90% dei suoi attivi è in Italia, Intesa ha quasi il 14%, capito? Del suo totale degli attivi, cioè di tutti i suoi impieghi eccetera, in titoli di Stato, e dice che è la banca di sistema, sì, per lo Stato però, non per l'economia italiana. Andiamo al secondo punto, diciamo così, il ritorno alla legge Volcker. Paul Volcker, il grande governatore, secondo me il più grande governatore della Fed, che seppe dire no alla politica di alzare i tassi di interesse, a differenza di Greenspan, che li ha tenuti troppo bassi. Poi abbiamo visto cosa è successo. La separazione delle banche, io purtroppo sono favorevole, ma non credo che avverrà più nella storia, quello tra banche commerciali e banche di investimento a lungo periodo. Tu che dici? Allora, io dico che bisogna essere realisti e fare un attimino i calcoli con il mondo in cui ci troviamo. Quando molto spesso diciamo che il mondo è cambiato, è la verità. Cioè, noi non possiamo pensare che questa sia solamente una crisi, perché le crisi sono cicliche, hanno un punto di alto, un punto di basso, poi finiscono, si ritorna a crescere e quant'altro. Qua no, questo è un completo ribilanciamento dell'economia globale, in cui c'è un Occidente che ha speso troppo negli anni passati e ci sono i paesi emergenti che hanno diverse difficoltà a stabilizzare la propria economia, perché hanno basato la propria crescita, i propri fattori di crescita economica su quello che faceva l'Occidente, e quindi anche un'estremizzazione della finanza. C'è da dire che anche a me piacerebbe eventualmente una divisione tra banche commerciali e banche di investimento. È possibile? Attualmente no, perché sono troppo interdipendenti. No, penso anch'io. Sono troppo interdipendenti. Purtroppo. Io penso però che i regolatori dovrebbero immaginare a diversi coefficienti di capitale di rischio a seconda del tipo di impiego. Cioè, significa che per banche che mettono molti dei loro attivi in una prospettiva di medio-lungo periodo o di alto rischio, allora il patrimonio di vigilanza deve essere più elevato che per impieghi a breve, per le famiglie, per le imprese. È un enorme problema tecnico, a dire la verità, però questa roba, secondo me, almeno questa bisognerebbe provare a farla. Però infatti è questa, scusami se ti interrompo, però infatti è questa una delle soluzioni che sarà probabilmente portata avanti dal comitato di Basilea. Speriamo. Quindi Basilea 3, quindi tutti i nuovi standard contabili. Gli stress test che saranno condotti appunto dalla Banca Centrale Europea e dalla European Banking Authority saranno condotti anche in base a questo, quindi esatto, quell'8% di capitale di base più liquido, più da utilizzare come cuscinetto di protezione, dovrà essere molto più elevato, perché dovrà tenere anche conto di questa nuova liquidità che servirà a proteggere le banche, gli investitori piccoli o grandi. Ed è per questo che il Tesoro ha pensato di regalare un po' di questo capitale aggiuntivo senza aumenti di capitale alle banche italiane con la rivalutazione delle quote di Banca d'Italia, altra cosa che a me non piace. Andiamo invece a chi dice, ma in realtà cambia qualcosa nel sistema bancario italiano? Ci sono dei segni per cui nel rating delle piccole imprese in sofferenza, al di là dei vecchi confidi che hanno funzionato, eccetera, eccetera. Io novità di questo tipo non ne vedo. Tu ne vedi, Fabrizio? Attualmente no, devo dire però che c'è una grande concentrazione, termine che odio perché significa tutto e niente, mi importano i fatti purtroppo alle imprese in questo momento, c'è una grande concertazione tra l'Associazione Bancaria Italiana e Confindustria. Si spera che nei prossimi mesi, entro la fine dell'anno, ci possa essere un miglioramento anche del sistema dei confidi e quindi anche uno sblocco di tanti fondi che sono incagliati, che non riescono a essere utilizzati per ridare liquidità, anche perché, e se ne discuterà anche oggi, perché comunque non è nell'agenda ufficiale, ma è chiaro che è uno dei temi principali, se adesso c'è un piccolo barlume di ripresa delle attività economiche, se non lo sfruttiamo adesso, l'Italia non lo sfrutterà più, anche perché la crescita che vedremo in Italia nei prossimi mesi, che ci sarà e sarà tutto sommato qualche decimale di positivo, non sarà basata sulla domanda interna, sarà basata sull'export. Se noi non risolviamo il problema della domanda interna, quindi non mettiamo in circolo un po' di liquidità anche alle imprese italiane, è chiaro che questa ripresa sarà vanificata nell'arco di pochissimi mesi. E qui, diciamo, dal mio punto di vista, si poteva fare accelerare molto di più il pagamento della pubblica amministrazione, dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese. Stiamo procedendo col contagocce, siamo intorno a 17 miliardi, e questa è una stima del Tesoro. Confindustria dice, ce ne risulta qualcuno in meno su un totale che, voi lo sapete, lo Stato non è in grado di quantificare, ma chi dice 100, chi dice di più. Da questo punto di vista poteva cambiare molto la liquidità delle imprese. Altra domanda, questa ci viene da un ascoltatore, ma per un cliente che legge se delle banche che stanno sulla soglia minima o sotto addirittura al limite di capitale di cui state parlando, cioè appunto Veneto Banca, Popolare di Milano, Popolare di Sondrio e così via, devo temere qualcosa? Mi chiede con un SMS l'ascoltatore. Tu che dici? Ma io dico di no, perché molto spesso si fa male informazione, si fa disinformazione. L'ultimo esempio è la presunta patrimoniale del Fondo Monetario Internazionale che ha tenuto banco la scorsa settimana, che in realtà era uno studio del Fondo Monetario Internazionale sugli effetti di una patrimoniale, chiamiamola così, di un prelievo forzoso all'interno di alcuni paesi. Allo stesso modo, i correntisti italiani possono stare tranquilli. È chiaro che se ci saranno delle banche che avranno, soprattutto quelle medio-piccole, che avranno bisogno di capitale, scenderanno sul mercato ed essendo comunque Veneto Banca, Carige e le altre, Credito Valtellinese che ci sono di mezzo nell'Asset Quality Review, è chiaro che la Banca Centrale Europea farà qualunque cosa al fine di proteggerle e soprattutto proteggere i piccoli correntisti. Allora, alcuni ascoltatori poi ci dicono, ma se c'è un downgrading del debito pubblico, rassegnatevi, se ci sono un altro downgrading del debito pubblico per metà delle banche quotate italiane, che sono a un notch quasi dal junk, sono cavoli amari. Speriamo che non avvenga. Grazie a Fabrizio Goria, appuntamento per noi a domani, seguite Radio 24 sempre.